Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis e soprattutto buone feste a voi tutti, benvenuti a questo speciale Smart City, la città intelligente. Allora, questo è il periodo dell'anno in cui si fanno più programmi per il futuro e allora cerchiamo di farne qualcuno anche noi, però praticando un po' di ottimismo, facendo un po' di esercizio di immaginazione, di questi tempi ce n'è bisogno. Parleremo di mobilità, parleremo di alcune cose semplici ma inaspettate che si potrebbero fare subito, come per esempio usare i tram per il trasporto merci, fino a prospettive un po' più lontane ma incredibilmente affascinanti, come per esempio PipeNet, una specie di internet delle merci che in 30 minuti, per farvi un esempio, potrebbe consentire un domani di spedire un pacco dal condominio X di Milano al condominio Y di Roma. Ma non solo, un domani questa cosa si potrebbe fare anche con gli esseri umani. Cominciamo però in tutt'altro modo, parlando di qualcosa che voglio introdurvi con un indovinello. Qual è quel mezzo pubblico elettrico che non ha bisogno né di tunnel né di rotaie, che in città viaggia veloce quasi quanto una metropolitana e si fa beffe del traffico? Allora, vi lascio 30 secondi per pensarci e vi do anche un indizio. Ascoltate l'audio. Spider-Man! This is why only fools are yours. Because you never know when some lunatic will come along with a sadistic choice. Let die the woman you love, or suffer the little children. Now shoot! Torniamo in studio. Allora, era una scena, era in inglese ma si capiva abbastanza bene, dal film Spider-Man del 2002. È la scena in cui il Green Goblin, che è il cattivo di turno, costringe Spider-Man a scegliere tra salvare la fidanzata, che tiene per un piede sospesa sul vuoto, oppure un'intera cabina della spettacolare Roosevelt Island Tramway, cioè una funivia. Era questo il mezzo di trasporto misterioso, funivia che per l'occasione è anche piena zeppa di bambini, e Green Goblin li lascia cadere contemporaneamente dal punto più alto del Queensborough Bridge, che è questo ponte lungo cui in quel tratto di percorso la funivia corre. Ed eccoci appunto al nostro mezzo di trasporto misterioso, la funivia urbana. Non so quanti di voi lo avessero indovinato. Io di recente ho provato a fare questa domanda anche a un gruppo di studenti di un master e ci è voluto un po' perché saltasse fuori la funivia. Il fatto è che di solito siamo abituati a pensare le cose nel loro contesto e la funivia siamo abituati a pensarla in montagna. In effetti, la funivia non ha nessuna difficoltà a superare forti pendenze e ostacoli naturali come fiumi e quant'altro, ma non c'è nessuna ragione al mondo per cui non possa essere applicata in pianura, in un posto normale e soprattutto in città, dove anzi ha un gran numero di vantaggi. Ho scoperto qualche anno fa, per la prima volta, incontrando ad un convegno Ermenegildo Zordan, che è sales manager, neanche a dirlo, di una delle principali aziende al mondo che costruisce impianti di risalita e più in generale sistemi di trasporto a fune. L'ho intervistato, sentite com'è andata. Ma il futuro sicuramente della nostra azienda sarà impianti di trasporto ad uso urbano, cosa che facciamo ormai da 15 anni. Abbiamo sviluppato il sistema di trasporto, il mini metro che abbiamo realizzato a Perugia, che ora è in esercizio dal 2008, trasporta oltre 3 milioni e mezzo di persone all'anno, e siamo convinti anche che i nostri impianti funiviari a fune, sospesa, in ambito urbano avranno sicuramente una prospettiva futura importante. Perché? Basso impatto sulla realtà urbana, piccole superfici di appoggio. Il punto sistemi, d'appoggio del sostegno e nient'altro. Le stazioni che possono diventare centri di interesse sociale, centri commerciali, possono avere un po' come in fondo già avviene per esempio per le stazioni di una metropolitana, con cui questo sistema quasi condivide la rapidità di spostamento. È abbastanza sorprendente perché uno pensa alla funivia e pensa che sia un mezzo lento. Invece che cosa succede quando la facciamo viaggiare sopra una città? La realtà è che viaggiamo ad una velocità commerciale decisamente superiore, ad esempio, a quella degli autobus, perché pur viaggiando noi tra i 6 e i 12 metri al secondo, che vuol dire tra i 20 e i 40 km a seconda delle tecnologie, in realtà è una velocità assolutamente puntuale, non interferita dal traffico esistente, quindi libera e soprattutto sicura. L'altro aspetto è la sicurezza che riusciamo a garantire ai passeggeri, vuoi attraverso i sistemi di controllo di telecamere che installiamo a bordo, vuoi sul fatto che alla stazione ci si deve arrivare e lì c'è il presidio di sicurezza. Senta, a sentire voi costa anche meno, sia realizzare l'infrastruttura, per esempio rispetto a quanto costa l'infrastruttura per un tram, costa anche molto meno gestirla, perché poi componenti elettrici hanno bisogno di pochissima manutenzione, due persone gestiscono una linea. Io, siccome siete parte in causa, prendo per buono quello che voi mi dite e le chiedo un'altra cosa invece di chiederle quanto costa. Perché voi avete realizzato, e mi sembra molto interessante raccontarlo, una funivia in una città molto particolare, in una zona molto particolare del Sud America, Rio de Janeiro, dove siete arrivati dentro la favela. Per fare che cosa e che cosa è successo poi? Ma questo è stato un fatto straordinario. Il governo della città di Rio de Janeiro ha inteso collegare la favela con quella che è la civiltà. Questa grandissima favela, Alemão, che raccoglie in realtà tre favelle assieme, è stata riconquistata dalla civiltà, nel senso che creando all'interno di questa sei stazioni per un sistema complesso di trasporto per cabinovia, ha permesso di collegare la ferrovia con il centro di questa favela e ha fatto sì di saltare completamente i vincoli e condizionamenti che subiva la mobilità, che era esclusivamente fatta a piedi, dove molti di questi vincoli erano controllati dai narcotrafficanti che chiedevano il pizzo, chiamiamolo così, ai passanti, e quindi questa gente veramente era scollegata dalla realtà del mondo. Infatti si sono opposti a questa trasformazione, a questa introduzione, perché perdevano almeno parzialmente il controllo di un territorio che d'altra parte non sarebbe stato possibile collegare in nessun altro modo, perché è una distesa di baracche dove non si può far passare niente. Assolutamente, questo ha permesso il nostro sistema di appoggio con i piloni di occupare piccolissime superfici. L'area occupata è stata poi recuperata con delle compensazioni, creando nuove viviendas, nuovi appartamenti per chi veniva espropriato per queste piccole aree. Soprattutto si sono create aree da destinazione sociale come il centro medico o scuola di musica o centro di accoglienza per gli anziani. Laddove queste cabinovie arrivavano. Senta, ultima domanda, perché io mi vedo già tutti protestare, ma che brutta, disturba la vista una funivia, che cosa risponde? Ma io rispondo immediatamente, siamo abituati a vedere questa distesa di automobili ferme, questa massa di lamiere che occupa le nostre strade e che in realtà ci impedisce una mobilità sostenibile oggi. Beh, una cosa è certa, se ricominciassimo a provare un po' di fastidio per queste migliaia di automobili parcheggiate lungo i marciapiedi di quasi ogni città, forse saremmo anche un po' meno schizzinosi sulle alternative. Senza contare che, d'accordo, un certo impatto indubbiamente c'è, ma con una buona progettazione può essere molto contenuto. Le stazioni di imbarco possono avere architetture anche molto belle, le cabine possono quasi scomparire nel cielo. E poi, francamente, se penso a certi quartieri, sono abbastanza certo che li potrebbe solo migliorare. In effetti, per quanto non in Italia, dove lo sappiamo, insomma, le indecisioni, i comitati del no regnano sovrani, la funivia sta riacquisendo sempre più popolarità proprio come mezzo di trasporto in città. La Roosevelt Island Tramway, di cui abbiamo parlato, in effetti è del 1976 e pensate, fu la prima via di comunicazione tra Manhattan e il Queens che fu rimessa in funzione dopo che l'uragano Sandy aveva colpito New York. E dicevamo che c'è stato un po' un ritorno di fiamma per questo mezzo di trasporto nelle nostre città ormai super affollate, dove la carenza di spazio è cronica, così come anche la saturazione del traffico di superficie. E allora questo sistema silenzioso in che vola sul traffico, avendo anche il pregio di regalare delle visuali mozzafiato a chi lo frequenta, sta così tornando un po' di moda. I primi a rivalutare la funivia sono stati i paesi sudamericani, con città come per esempio Rio de Janeiro, lo abbiamo sentito, più di recente anche varie città europee, tra cui Londra, si sono dotate di un sistema a funivia. In Italia esistono dei progetti, uno è stato approvato poco tempo fa a Genova, dopo però un iter lunghissimo, e da tempo per esempio è stata proposta una funivia urbana per collegare la zona di Segrate, nell'Interland di Milano, con il vicino aeroporto, il centro della città. Sono 4 chilometri che i bus oggi impiegano, quando va bene, 45 minuti per percorrerli. Ma cambiamo argomento, perché voglio parlarvi di un'altra alternativa possibile per alleggerire il traffico urbano. Ricordiamo che una buona parte di questo traffico è legato al trasporto delle merci, per cui una buona strategia è lavorare sulle merci per migliorare la mobilità delle persone. Anche qui i problemi sono quelli lì, sono noti: inquinamento, sovrapposizione con il traffico umano, eccetera, eccetera. E quindi molti sforzi sono rivolti a sostituire i furgoni e i camion con altri veicoli meno impattanti e appunto meno in conflitto con la mobilità delle persone. Un'idea, anche questa nient'altro che un revival però di quello che già si faceva in passato, è di usare la rete tranviaria e appunto dei tram appositamente equipaggiati per il trasporto merci in città. Il fatto altamente positivo è che parliamo di usare un'infrastruttura che esiste già e che garantisce già una mobilità di tipo elettrico. La difficoltà è integrare il trasporto merci nelle tabelle di marcia del trasporto persone senza peggiorarlo. Ci sono esempi diversi in Europa, in Germania per esempio dal 2001 è in funzione un cargo tram lungo 40 metri che trasporta lavorati e semilavorati tra la fabbrica automobilistica Volkswagen e il centro logistico. Anche a Vienna e Zurigo sono operativi dei servizi analoghi. Adesso anche Parigi ha cominciato una sperimentazione. Ad Amsterdam invece una sperimentazione che è stata fatta qualche tempo fa ha dato risultato negativo, costava troppo. Insomma, l'idea è buona, ma il successo non è garantito. C'è da dire che è molto improbabile, bisogna dirlo, salvo situazioni molto particolari come quella di Dresda, che con tutti i suoi limiti comunque il sistema logistico è molto raffinato e quindi è improbabile che delle operazioni spot che non sono perfettamente inserite nel contesto dei trasporti abbiano probabilità di avere successo. Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis, bentornati in studio, bentornati a questo speciale Smart City di fine anno. Parliamo di mobilità del futuro. Allora, la distanza tra San Francisco e Los Angeles è di circa 610 km, più o meno la stessa che separa Roma da Milano. Ora, immaginate di poterla percorrere in 30 minuti circa con 15 euro di biglietto. Tempi di attesa pari a zero per l'imbarco, infatti non c'è orario dato che le partenze sono ogni 30 secondi. Non parliamo di un nuovo treno, non parliamo di un aereo con un sistema di imbarco particolarmente furbo, non parliamo neanche dell'elicottero privato. Parliamo di Hyperloop, un sistema di trasporto altamente innovativo. È l'ultima idea, l'ultima proposta di Elon Musk. 42 anni, Elon Musk è tra i fondatori di PayPal, che è il sistema di pagamento più diffuso su internet. Ha anche prodotto l'automobile completamente elettrica Tesla Model S e recentemente Musk ha fondato una compagnia spaziale privata, la Space, che in pochi anni è diventata fornitrice della NASA e oggi ha contratti miliardari con l'ente spaziale americano, e questo per fornire la stazione spaziale internazionale con i propri razzi vettori. Ebbene, Hyperloop funziona sulla base di un principio che in realtà è tutt'altro che innovativo, che ha visto il suo momento di massimo fulgore intorno agli anni 60, dove adesso vi riporto per un minuto grazie a questo contributo d'epoca. Ascoltiamo. Ultimato il lavoro in galleria, il gruppo generatore viene avviato per il normale esercizio. La centrale di Roma a San Silvestro dispone di 3 gruppi da 140 cavalli ciascuno. L'aria da essi prodotta passa attraverso una serie di filtri prima di raggiungere le tubazioni. La pressione di linea è regolata da manometri e congegni elettrici che permettono la distribuzione uniforme di aria secca in tutte le linee. Nella sala della stazione di posta pneumatica, i dispacci vengono immessi nei bossoli. I bossoli contenenti la posta, appena arrivano alla stazione di recapito, vengono immediatamente aperti ed il loro contenuto viene passato all'operatore che lo suddivide per zona. Allora, quello che avete sentito è un breve documentario degli anni 60 sul servizio postale, dove all'epoca, cioè prima che l'elettronica invadesse il campo delle comunicazioni, andava alla grande la posta pneumatica. Io ricordo di averne vista una in funzione quando ero bambino, e il principio di funzionamento è banale, insomma è quello della cerbottana. Avete un tubo con varie diramazioni per collegare tutte le destinazioni possibili, nel quale viene pompato un potente getto d'aria. All'interno di questo tubo, spinte dal getto d'aria, viaggiano delle capsule che all'epoca appunto contenevano i messaggi di posta. Ora prendete questo tubo, fatelo largo un metro circa al posto di qualche centimetro, e nelle capsule, anche loro opportunamente ingigantite, posizionate tre comode poltrone e un vano portabagagli, e avete Hyperloop. Ora, non so se lo giudichiate folle, se invece giudichiate questa idea illuminata, ma quello che so è che all'Università di Perugia stanno lavorando a qualcosa di ancora più avanzato. Si chiama PipeNet e lo sta mettendo a punto il gruppo di ricerca del professor Franco Cotana, che ho intervistato per Smart City ormai qualche tempo fa. Ecco i numeri abbastanza incredibili di questo strano mezzo di trasporto. Sentite. Allora, velocità oltre 1500 km orari, capacità di trasporto circa una tonnellata al secondo. Consumi energetici? Consumi energetici ridottissimi, un quinto, un decimo di quello che avremmo consumato se avessimo trasportato la merce su strada, oppure la metà di quanto si fa con il trasporto ferroviario. Allora, 1500 km orari, una tonnellata al secondo. 1500 km orari sono, per dare un'idea, una volta e mezzo, anche qualcosa di più, la velocità di un volo di linea. Allora, descriviamo il sistema. Come si fa a viaggiare così velocemente e con consumi così bassi? Ma il segreto è quello di realizzare una struttura tubolare, diciamo, un tubo dove all'interno si toglie l'aria, e ci sono quindi delle capsule che contengono la merce da trasportare. Sì. E che possono quindi viaggiare in assenza di attriti, perché l'attrito più importante quando si superano i 300 km orari, 400, è costituito dall'aria, appunto. E la propulsione di queste capsule avviene in maniera sincrona con un motore elettrico lineare, cioè una specie di motore che crea un'onda magnetica sopra la quale queste capsule sono incastrate, per così dire, e viaggiano l'una a una certa distanza dall'altra in degli appositi slot. Gli slot sono delle caselle virtuali in cui queste capsule possono essere. Allora, diciamo alloggiate. Che abbiamo questo tubo, all'interno ci sono dei binari. Questi binari sono dei binari magnetici, e la capsula, che è un cilindro che viaggia all'interno di questo tubo, resta appoggiata, sospesa su questi binari magnetici. Quindi non c'è un attrito dovuto alle ruote, l'attrito volvente, si dice così, non c'è nemmeno l'attrito dovuto all'aria, che diventa estremamente significativo quando si superano certe velocità. Ecco, diciamo che è un oggetto di cui esiste un prototipo, non è che ci sia solo un progetto, ce l'avete lì a Perugia, no? Noi abbiamo due prototipi, un primo prototipo molto semplice, che ha proprio un motore elettrico lineare e una capsula della lunghezza di 2 metri, è completamente aperto. Un altro prototipo invece con due piccole stazioni di circa 100 metri è un andata e ritorno, ma certo, stiamo studiando altri sistemi per completare il tutto. Senta, come si posa questa infrastruttura? Che vista da fuori è un tubo, no? Largo quanto? Ma circa 1 metro di diametro, e per questo che ha un impatto ridottissimo sull'ambiente. La posa può avvenire in affiancamento alle infrastrutture esistenti come strade, autostrade o ferrovie, ma anche sott'acqua, praticamente come la posa di un tubo di un oleodotto. Ecco, quindi si potrebbe, per dire, tirare un tubone da Palermo a Genova e spedire a 1500 km all'ora le cose da una parte all'altra. Esatto. Dell'Italia. Portiamo le arance dalla Sicilia fino a Genova, poi il pesce. Tipo in tre quarti d'ora dovrebbero arrivare. Senta, cosa costa? Perché uno dirà, una cosa incredibile. Ecco, appunto, noi abbiamo valutato i costi, ecco, su